Devo confessare che il tema della menzogna mi è sempre stato caro. Innanzitutto perché per carattere ho sempre aborrito a livello epidermico ogni aspetto che non fosse vero. Perciò la mia avversione verso ogni forma di falsità, di bugia, di inganno non è né un merito né un demerito. E questione di carattere. Poi, perché la menzogna è una delle sette cose che l'Eterno odia, Proverbi 6 e 17. Infine, anch'io odio la menzogna perché essa è uno dei peccati di cui giornalmente si nutre e pratica la società, e della quale prendono piacere. Nessuno, come dicono i profeti, dice la verità, come l'ha nel cuore, benedicono con la loro bocca, ma nel loro cuore maledicono, sono tutti figli del diavolo che fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non quack. È verità, quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Questo non è un quadro devastante di un pessimista, di chi vede nero dove vi è bianco, ma una effettiva realtà, i cui risultati si manifestano ogni giorno sotto i nostri occhi. E non solo. Noi stessi, se abbiamo un poco di obiettività, siamo spettatori che nel nostro cuore, come disse Gesù, provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. La menzogna è dunque non solo il primo peccato consumato nell'Eden, ma accompagna momento dopo momento la vita di ogni essere umano, non rigenerato dallo Spirito Santo fino alla tomba. Purtroppo, anche chi ha realizzato una nuova nascita e possiede lo Spirito di Cristo, non è esente da questo mortale veleno. Al punto che l'Apostolo Paolo ha dovuto scrivere nella lettera agli Efesini, perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Per questa naturale avversione verso ogni forma di falsità ne ha sempre fatto effetto questo ordine indirizzato a dei figli di Dio, ma evidentemente possedere una nuova natura non significa, come in molti altri ambiti, realizzare la santità richiesta da Dio. Certo, tutti sbagliamo in mille modi e in mille maniere, la menzogna però non è un peccato nel quale ci capiti di inciampare, come una parola impropria o un atto di ira. Essa generalmente viene proferita dopo aver valutato, anche in decimi di secondo, la verità e poi aver scelto di dire il contrario. La menzogna è dunque un peccato valutato, calcolato e detto apposta. Non avrei fatto queste riflessioni in merito alla menzogna se non avessi avuto un dubbio che mi attanagliava ogni giorno e che non mi lasciava in pace. Fin da piccolo mi è sempre stato insegnato di non dire bugie perché, secondo gli elementi religiosi che mi venivano trasmessi, era un preciso comandamento di Dio. Però, quando mettevo questo ordine a confronto con la realtà della vita, mi recava non pochi problemi. Possibile che Dio avesse proibito la menzogna in senso assoluto? La mia sorpresa fu grande quando, diventato figlio di Dio, mi misi a leggere la Scrittura. Non ci volle molto per rendermi conto di come un certo tipo di menzogna non solo era lecita e praticata da uomini dotati di un santo timore del Creatore, ma che essa fosse stata benedetta anche da Dio. Alcuni esempi sono più che sufficienti e istruttivi. Nel libro dell'Esodo leggiamo che il faraone, per paura che il popolo di Israele diventasse troppo potente, ordina alle levatrici di uccidere tutti i maschi. Ma le levatrici raccontano una menzogna al faraone e per questo vengono benedette dall'Eterno. La vita di Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio per la sua sincerità, è spesso caratterizzata dalla menzogna, mentendo davanti al sacerdote Ahimelech, davanti al re Achis presso il quale si era rifugiato e impegnando perfino Jonathan a mentire. Anche il profeta Geremia mente più volte per poter salvare la sua vita. Infine, nel libro di Giosuè leggiamo che una prostituta di nome Rahab mente per salvare la vita dei due informatori mandati da Giosuè per spiare il paese. E per questo essa venne elencata nei grandi eroi della fede al capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Forse il caso più eclatante è ciò che l'Eterno, la divinità di Israele, disse al profeta Samuele. L'Eterno aveva rigettato il re Saul e voleva ungerne un altro, ed ecco cosa disse Samuele. Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo corno di olio e vau, ti mando da Isai il Betlemita, perché mi sono scelto un re tra i suoi figli. Samuele rispose, come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. L'Eterno disse, prenderai con te una giovenca e dirai, sono venuto per offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai Isai al sacrificio, io ti indicherò ciò che dovrai fare, e tu mi ungerai colui che ti dirò. Così Samuele fece quello che l'Eterno gli aveva detto, e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro tremanti e gli dissero, vieni pacificamente. Egli rispose, vengo pacificamente. Sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno, purificatevi e venite con me al sacrificio. 1 Samuele 16, 1 a 5. Dunque, perché non venisse ucciso, l'Eterno ordinò a Samuele di non dire tutta la verità, di non dire il vero motivo per cui era andato a fare il sacrifico. E Samuele obbedì dicendo una mezza verità, che in altri termini è una menzogna. Questi episodi lasciano molto perplessi chi desidera obbedire a Dio senza riserve, soprattutto nel prendere atto che lo stesso Dio ordina a Samuele di mentire. Qualcuno potrebbe anche mettere in dubbio una simile conclusione, ma è più che certo che il sacrificio di Samuele era una scusa per poter ungere re Davide. È una scusa e una menzogna ricoperta di verità. Perciò, di fronte a questi episodi, non trovando armonia tra ciò che comprendevo nella scrittura e quello che mi era stato insegnato, mi rendevo conto che qualcosa mi sfuggiva, per cui ho riflettuto a lungo sul nono comandamento. In effetti, rileggendolo, ho notato che l'Eterno non ordina di non mentire, eccolo. Non proferirai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Balza all'occhio che l'ordine dell'Eterno è quello di non attestare, dire o pronunciare il falso contro il prossimo. Quindi, l'ingiunzione non proibisce categoricamente la menzogna, ma l'affermare il falso allo scopo di danneggiare il prossimo. Conclusione più che approvata nella pratica da molti cristiani, perché molti di questi in tempi di guerra hanno mentito per salvare tanta gente innocente e anche oggigiorno, molti altri mentono per portare la parola di Dio dove è vietato professare una religione. E poiché io ritengo che quei credenti che mentono per salvare l'altrui e la propria vita amano il nostro Signore, se non più di me almeno quanto me, sono propenso a concludere che anch'essi abbiano interpretato il comandamento come l'ho compreso io. Allora, mi si dirà, la menzogna è lecita? Dobbiamo approvare la bugia. Prima di rispondere, dobbiamo partire da un presupposto sicuro. Dagli esempi citati nella parola di Dio emerge chiara una verità. La menzogna è ammessa per salvare la propria e altrui vita e per schierarsi a favore del Dio rivelato nelle scritture. Se non fosse così, dovremmo assieme a Dio condannare severamente uomini che Lui ha preso come esempio e benedetto abbondantemente. L'esempio più eclatante è Rahab, la prostituta, che per le sue menzogne per salvare la vita di altri a favore del regno di Dio è elencata tra i grandi uomini di fede. E non solo. Nonostante non fosse del popolo di Israele, essa è diventata una degna antenata di Davide e di Gesù Cristo. Per altri casi di menzogna è difficile pronunciarsi perché si rischia di cadere nel pericolo di legalizzare ogni sorta di menzogna che non sia a danno del prossimo. Forse qualcuno potrebbe sottovalutare l'effetto mortale della menzogna, potrebbe ritenerlo un peccato non così grave, dato che in certi casi è lecita, ma solo tre verità sono sufficienti per dimostrare la sua gravità. Abbiamo detto che Satana è il padre della menzogna e che le sue parole sono da ritenere sempre bugiarde. È vero che egli fa affermazioni che corrispondono alla verità. Oppure, come nel caso della tentazione di Gesù, cita addirittura la parola di Dio, ma dal momento che il suo scopo è sempre malvagio, tutto ciò che afferma non corrisponde alla verità. La verità, per essere tale, deve anche essere accompagnata da una buona motivazione e dall'amore, altrimenti non è più verità. Questo primo aspetto dovrebbe produrre in chi teme Dio una santa avversione verso ogni forma di menzogna a danno del prossimo. La seconda verità è che la gravità della menzogna prende il suo aspetto orribile quando consideriamo che il Figlio di Dio è stato condannato e crocifisso sulla base di una falsa testimonianza contro di lui. Gesù non è morto in croce perché qualcuno ha detto una bugia, ma perché alcuni testimoni hanno detto il falso con lo scopo di colpirlo. Infine, la terza tremenda verità è che in cielo saranno rifiutati i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22:15. Possiamo essere comprensivi che in cielo siano rifiutati gli omicidi, gli idolatri, i fornicatori, ma ci sembra un poco esagerata la sentenza di rifiutare in cielo coloro che hanno semplicemente mentito e praticato la menzogna. Ma la menzogna non è solo dire qualcosa che non corrisponde alla verità, ma anche praticare ciò che non è conforme al volere di Dio. A volte disprezziamo l'ignoranza degli uomini di altri tempi, ma vi è una preghiera nel libro dei Proverbi che merita di essere ripetuta ogni giorno. Io ti ho chiesto due cose: non negarmele prima che io muoia, allontana da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario perché, una volta sazio, non ti rinneghi e dica chi è l'Eterno, oppure, divenuto povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Proverbi 38. Chi ha formulato questa preghiera era conscio di quanto deleteria fosse la menzogna, perciò è più che salutare odiare, non soltanto ogni forma di menzogna come la calunnia, cioè dire del male che si sa essere falso, e la maldicenza, cioè dire, senza necessità, del male che è vero, ma soprattutto determinare con fermezza il non proferire nessuna parola falsa per colpire il prossimo. Chiediamo la grazia di non trovarci a mentire per salvare la nostra o altrui vita. E a causa del Vangelo, e se ciò avvenisse, accettiamo queste uniche eccezioni dal Dio delle eccezioni. Novembre 2003, Ellero,